poi sorprenderti per quello che non lascio mai. Niente mancia i servi tuoi che sono schiavi della Trinità. Sterile che ti distrugge il cervello.